Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuovo appuntamento con il mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallini studio, da Eddie Daici in regia. Periodicamente parliamo anche di orientamento e quando dico orientamento dico Giampaolo Alimede, bentornato. Ahimè sì, bentrovati a tutti quanti. Con alcune persone che ritroviamo, giusto, perché l'anno scorso, prima che finisse il percorso della terza media, li avevamo sentiti, adesso all'inizio dell'anno scolastico, alle superiori, alcuni di loro li ritroviamo. Allora, diamo il benvenuto intanto ad Alice, che frequenta il liceo classico, giusto? Sì, ciao. E a Riccardo, giusto? Ciao. A Riccardo, che invece fa l'istituto tecnico turistico. Allora, Giampaolo, da cosa partiamo? Ma io direi che intanto questi ragazzi non sanno quello che gli succede nel tempo, quindi se arrivano in terza media automaticamente cascano nella rete radio, in questo certo. caso. Perché è giusto anche secondo me dare una continuità e capire se le loro idee di terza media si sono confermate oppure no, e quindi mi sembrerebbe una cosa interessante. Loro sono stati gentilissimi e disponibili, quindi approfittiamo della loro disponibilità. Uh-huh. Qualcuno malignamente ha detto mi dovreste anche pagare, ma era uno scherzo ovviamente. È solo il gusto di essere qui che, sì, che vale già. Sì, sì, è già una paga. Certo. Bene, partiamo con una domanda molto semplice. La scuola che state frequentando è quella che avevate scelto in terza media? Alice? Sì. Sì, avevi scelto il liceo classico, mi ricordo, sì. Anch'io. Riccardo aveva scelto il turistico, certo. Quindi fin qui la fin scelta qua, è stata confermata. Fin qua è facile, no? Però mm-hmm. per rompere il ghiaccio. E perché avete scelto questa scuola? Alice? Perché penso sia una scuola che è molto importante, perché aiuta a aprire la mentalità. E se qualcuno pensa che le materie che si studiano non sono importanti nella vita, non credo sia completamente vero. Uh-huh. Riccardo? Io invece ho scelto l'istituto tecnico turistico perché mi piacciono le lingue e mi piace viaggiare. Mi sembrano due risposte molto e se ricordo bene quello che belle, avevano detto, ecco, possiamo sì. confermare. Chissà se gli ascoltatori fedeli si ricorderanno di queste voci di questi ragazzi. Comunque, diciamo, è sempre interessante vedere la loro determinazione. Ecco. I genitori nella vostra scelta in qualche maniera vi hanno aiutati, influenzati? Qua, se ricordo bene, nessuno di voi, cioè entrambi avevate detto no, se ricordo bene, da alcuni mesi fa. Alice? No, no, non mi hanno costretto, però mi hanno appoggiata nella scelta. Stessa cosa per me. Stessa cosa, vedi, ricordavo bene. Insomma, è ancora importante ribadirlo, perché fra poco i ragazzi di terza media saranno impegnati nella loro scelta. Sì, manca poco. E quindi vale la pena di far presente l'importanza della protagonismo di chi sceglie, e quindi il genitore deve essere di aiuto. Mi pare che l'Alice in questo modo ha sottolineato una cosa veramente importante. Ecco, adesso una domanda diciamo un po' più impegnativa. In terza media voi avevate immaginato a modo vostro la scuola superiore. Quella che voi state frequentando è così come l'avevate pensata? E in che cosa è diversa? E in che cosa è diversa? Chi vuole cominciare? Indifferente. Alice? No, io anche da quello che mi raccontavano gli altri ragazzi pensavo fosse molto più difficile. E quindi? No, io... No, adesso mi trovo bene. È più semplice di quello che credevo. Bene. Io invece il contrario, pensavo fosse molto più facile. Vedi, alcune te la immaginavi, l'avevi conosciuta, giusto? Perché entrambi l'avevate vista magari nelle giornate di scuola aperta prima. Sì. Mm-hmm. Però non è bastato quello a farsi un'idea complessiva. Sì, ci sono difatti tante materie nuove e complicate e anche tanti compiti rispetto alle medie. Quali sono le materie complicate? Fisica, economia, diritto, le materie turistiche, ma anche le nuove lingue, così dalla grammatica iniziale, prime cose. Alice, particolari. Il greco. Il greco, liceo classico, il greco, non è cosa da poco. Anche perché partire da zero. Vabbè, ma anche col latino partivi da zero. Ma no, perché l'anno scorso alle medie avevamo fatto un laboratorio che ci aveva un po' introdotto e quindi per me è più semplice il latino rispetto al greco. Bisogna intanto imparare l'alfabeto del greco e poi... È interessante però, ecco, io credo che così come si fanno i corsi di latino, per esempio, alle medie, per introdurre a chi farà licei scientifici e classici, potrebbe essere anche interessante il greco. Vabbè, comunque speriamo che qualche insegnante ascolti e magari... Vabbè, ma siamo appena alle prime settimane di scuola, confidiamo insomma che al balzo. Col periodo successivo vada meglio. Va bene. Io sai cosa farei? Aggiungerei proprio la questione dell'insegnante, no? Perché l'anno scorso, quando siete stati qui, vi avevamo chiesto qual è il vostro professore ideale. E Alice, vuoi ricordare che cosa avevi detto con le tue risposte? Io avevo detto che doveva essere una persona di mentalità aperta, che doveva saper mantenere la disciplina in classe, deve essere una persona che si fa rispettare e che rispetta. Le ritrovi queste caratteristiche, non in tutti gli insegnanti del liceo, però almeno in alcuni? Sì, sì. Andiamo, Riccardo, cosa avevi detto? Io avevo messo che doveva essere simpatico, accettare delle battute. Inoltre, quando ci sono dei problemi, bisogna affrontarli all'interno della classe. Certe volte... il professore deve saper scherzare, non sempre essere serio, e deve rendere le lezioni abbastanza piacevoli in modo che gli alunni non si annoino. Sono tutti così simpaticoni al turistico? No. Non so. Non tutto. O qualcuno c'è o sono tutti... qualcuno c'è, ma non sempre accettano delle battute. Ecco, vedi, quindi le aspettative non si sono realizzate. Allora, per la Alice sì, ma per Riccardo quali si sono realizzate di queste? Cos'è che hai trovato? I problemi che ci sono in classe sono affrontati sempre all'interno della classe con i professori interessati. E per il resto, insomma, esatto. Un po' a macchia di leopardo. Esatto. Qualcuno ci si trova, con qualcuno meno. Allora, la nostra prima tranche si è già esaurita. Tra poco torniamo con Alice e con Riccardo, ma poi ci sono altri due ospiti in stand-by. A tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Oh! rimane il mio stile, non serve a te né a me. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando di orientamento in una fase di verifica all'inizio dell'anno scolastico per chi è al primo anno delle scuole superiori. Sentiamo nel confronto rispetto a quello che ci avevano detto qualche mese fa, nello specifico Riccardo e Alice che stanno frequentando l'uno l'istituto turistico e l'altra il liceo classico. L'accoglienza, i primissimi giorni, no? Ormai un mese e mezzo fa, l'accoglienza Alice com'è stata? Breve, giusto per conoscersi e dopo si è partiti col programma. E cioè, in cosa è consistita? Buongiorno, benvenuti, feste e festoni per tutti, la banda no, che suonava. Una piccola descrizione di sé e un incontro con una psicologa dell'ULS. Mm-hmm. Riccardo, al turistico? La nostra accoglienza è durata 2 giorni. Difatti abbiamo iniziato la scuola 2 giorni prima rispetto agli altri e consisteva nel farci vedere la struttura interna della scuola e presentarci i professori. Dopo il secondo e il terzo giorno abbiamo iniziato anche a parlare, a prendere confidenza tra noi compagni, ma come ha detto Alice, dopo si è iniziato subito a fare scuola, a studiare. E a studiare in modo diverso, in modo più intenso, molto di più, come diceva Riccardo, Alice, si studia in modo diverso, di più, di meno rispetto alle medie? Sicuramente si studia di più rispetto alle medie, però il metodo di studio per me è sempre lo stesso. Mm-hmm. Anche per me è lo stesso, ma... È la quantità che è cambiata. La quantità e anche l'intensità, cioè come si studiano... Come si approfondiscono gli argomenti. Quante ore al pomeriggio? Dipende, ma in media 2-3. 2-3. Alice? Sì, 2-3 ore. Ecco, gli ascoltatori, secondo me, non... Anch'io faccio fatica a capire, ma cosa vuol dire studio alla stessa maniera? Fate un esempio. Cioè, qual è il metodo di studio vostro? Perché se uno a casa deve dire, senti Riccardo, nipote mio, alle scuole superiori si studia così, alla stessa maniera delle medie, no, non capiscono, non so se... Cioè, date un consiglio, quando si comincia, quando si interrompe, con che tempi, hai capito? Ma io parto all'inizio del pomeriggio, faccio i compiti, una pausa e dopo inizio a studiare, quindi leggere e ripetere le cose. Stessa cosa per me. Con brevi interruzioni perché i compiti sono veramente tanti e bisogna essere sempre concentrati sull'argomento. Anche perché altrimenti poi il cervello inizia a fare fumo. Quindi la concentrazione... Che vuol dire avere la radio che va? No. Il computer, il cellulare che suona? No. E anche la costanza. Bene. Quindi la costanza, la concentrazione e nessuna distrazione. Bravi. Tocchiamo un altro aspetto, anche questo lo avevamo affrontato qualche mese fa sempre con voi, la questione della responsabilità degli studenti che poi verrà fuori. Alice, è già un tema che è venuto fuori in queste prime settimane, ti ricordi che cosa avevamo detto all'epoca della responsabilità, della partecipazione democratica, delle elezioni? In questi giorni si vota in America, quindi, e non solo in America. No, noi abbiamo già fatto i rappresentanti di classe e la domanda che una compagna faceva sempre a tutti i candidati: farete feste? Questa non è tanta responsabilità, però vabbè, un po' di svago ci sta. Anche noi abbiamo già fatto le lezioni, sia per i rappresentanti di classe che per quelli di istituto e... le responsabilità sì sono molte, ma bisogna essere responsabili per far delle cose che piacevoli anche per i propri compagni. sono di sicuro più responsabilità rispetto agli anni scorsi. Uh-huh. Insomma, cominciate anche ad andare verso l'età adulta e maggiore. Uh-huh. Allora, visto che il tempo sta passando, riusciamo a fare un cambio adesso tra Alice e Riccardo e altre due voci che sono Alberto e Marco che subentrano. Eccoli qui, allora, Alberto, anche lui frequenta l'istituto turistico come Riccardo, e Marco che invece frequenta l'istituto agrario. Ripartiamo con le stesse domande che abbiamo fatto a Riccardo e Alice, cioè se quella che avete scelto, che state frequentando, è quella che avevate scelto in terza media. Alberto? Già dalla terza media avevo impressa la scuola, come idea questa scuola, e anche quest'anno ho fatto la scelta di andare al Mazzotti. Invece bene. Marco? No, io invece ero partito con l'idea di andare al Fermi fare meccanica, solo che dopo mi sono reso conto che avevo sbagliato e ho cambiato scuola e adesso faccio l'agraria. Allora, ti chiediamo subito come hai fatto a renderti conto che non era la scelta giusta. Sono stato bocciato, ma sì, da qua mi sono reso conto che non è stata una buona scelta andare a quella scuola. Ecco, allora, intanto una cosa importante credo da sottolineare, perché Marco è un ospite che abbiamo già avuto in radio, uh-huh. Quindi è un piacere rincontrarli, perché è giusto anche avere una storia un sì. pochino di questi ragazzi, no? Ecco, è importante capire che si può anche sbagliare scelta e correggere il tiro. Adesso gli chiederemo a Marco se correggendo il tiro va meglio rispetto a quando aveva scelto la prima. Allora, Marco, quest'anno come va? Quest'anno va molto molto meglio, infatti anche mi impegno molto di più anche nello studio, ne fare i compiti, così per non fare come l'anno scorso, insomma. Quindi devo, da come hai risposto, devo capire che l'anno scorso non è tanto la scuola, forse tu non ti impegnavi tanto, un po' questo e un po' quello. Diciamo un po' tutti e due, perché sì, ok, facevo sempre i compiti, studiavo, poi era anche la scuola che sì, mi sono reso conto che non mi piaceva. Uh-huh. Ecco, peccato che non abbiamo la televisione, sennò la faccia di Marco sarebbe eloquente, è entusiasta di quello che sta dicendo, di quello che ha vissuto, e quindi anche le cose negative, se producono un risultato positivo, insegnano qualche cosa. Facciamo l'ultima pausa e poi torniamo appunto con Alberto e Marco per approfondire le loro scelte sulla scuola superiore. Dal mondo della scuola. It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still won't abuse my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age? About the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. That's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously. With many years ahead to fall in line, why would you wish that on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again? We'll be right back. Ultima parte per questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando di orientamento e lo facciamo con delle esperienze concrete, quelle di alcuni studenti che stanno frequentando il primo anno di tre scuole. Marco ha cambiato, l'anno scorso aveva fatto una scelta, si è ravveduto, ne ha fatta un'altra, e allora chiediamo sia a Marco che frequenta l'agrario sia ad Alberto che frequenta il turistico, dopo un mese e mezzo di scuola la scelta mi pare sia stata positiva. Mettiamo in evidenza magari alcuni aspetti, cioè che cosa c'è di particolarmente positivo oppure anche di negativo che avete scoperto rispetto a quello che vi aspettavate qualche mese fa. Cominciamo da Alberto. Mi sono accorto che comunque rispetto all'anno scorso bisogna impegnarsi di più e stare più attenti in classe, però gli argomenti e le spiegazioni degli insegnanti sono più dettagliate e approfondite, quindi ti inducono a stare più attento alla lezione. Marco? Sì, anche per me, cioè dall'anno scorso diciamo che più o meno sono le stesse cose, perché i professori spiegano sempre allo stesso modo. Però rispetto alla terza media ci sono più compiti, più da studiare, cioè bisogna impegnarsi di più. Eh sì, purtroppo o per fortuna bisogna impegnarsi di più. D'altra parte è così nella vita, no? Le aspettative, insomma, le avevamo analizzate. Arriviamo anche loro al discorso dei professori, professore ideale, no? Abbiamo sottoposto una ventina di caratteristiche che avete guardato nel frattempo, prima. Alberto, il tuo professore ideale, alcune caratteristiche, quelle più importanti? Secondo me dovrebbe il professore, soprattutto perché sono più anziani rispetto a noi, dovrebbero mettersi nei nostri panni e quindi tornare anche loro giovani, come lo siamo noi. E devono essere imparziali nei voti, devono ammettere i propri errori e devono accettare le battute che noi alunni facciamo ogni tanto. E ci riescono i tuoi professori? Ogni tanto sì, però ogni tanto ti dicono parole perché magari non è il momento adatto, perché stanno spiegando. Marco? Anche secondo me, cioè, devono essere simpatici, diciamo, no, sempre essere severi, spiegare, basta, devono fare anche qualche battuta. Poi sì, se abbiamo qualche difficoltà magari nella materia, aiutarci, farci recuperare, diciamo, quella materia, e sì, dovrebbero parlare con noi, farci degli esempi quando spiegano, così magari possiamo capirli meglio. Tu hai, scusa Giampaolo, tu hai avuto il confronto, hai avuto dei professori l'anno scorso in una scuola, adesso quest'anno negli altri. Di queste caratteristiche dov'è che ne trovi di più, da una parte o dall'altra? Beh, devo dire, all'agraria qua ci sono professori un po'... ci sono sia severi che quelli simpatici, quelli di tutti i tipi, cioè. Sono, secondo me, sono più o meno uguali i professori. Beh, era quello che hai chiesto tu, e quindi è così, purtroppo è la realtà, non è purtroppo. Come anche gli studenti sono tutti diversi. Sì, sono tutti diversi, quindi. E voi, ecco, una cosa interessante. Io, frequentando il mondo della scuola, da pensionato, quindi non a tempo pieno, vedo i professori stressati. Cosa gli fate voi ai professori? Cosa gli combinate? Perché sono più o meno uguali, ma forse i professori sono più o meno uguali, ma i ragazzi in cosa sono cambiati? Di certo penso che siamo molto più vivaci e parliamo tra di noi. Anche i primi giorni di scuola io mi ricordo che tra di noi ci raccontavamo le conoscenze che abbiamo in comune, quello che ci piace fare in comune, soprattutto per legare tra di noi. Cioè, anche per noi, cioè, noi non, almeno io non credo di fargli niente ai professori, sono, non so. Sono se stessi sì. Tutti quanti, no? Passiamo alla pagina consigli. Adesso, appunto, quelli che sono in terza media, fra qualche mese, entro gennaio, giusto? Sì. Dovranno fare la scelta. Voi l'avete già fatta, Marco l'ha fatta due volte, quindi che consigli vi sentite di dare a chi è in terza media adesso? Cioè, come scegliere, a che cosa stare attenti, eccetera. Secondo me devono badare molto alle materie in cui vanno meglio e a ciò che gli piace fare a loro, e non farsi condizionare dagli altri, magari perché un amico va a una scuola, di seguirlo. e sì, non farsi condizionare e scegliere con la propria testa. Marco? Non devono farsi condizionare soprattutto dai genitori, perché magari i genitori ti fanno fare una scelta che a loro piace, perché magari dicono ma qua sei più bravo in questo, magari quella scuola là non è adatta a te, e te ne fanno fare un'altra che scelgono loro. Abbiamo un paio di minuti per ricoinvolgere di nuovo Riccardo e Alice insieme ad Alberto e Marco per fare Giampaolo una domanda a medio termine. Sì, sì, che poi verificheremo magari se avremo l'occasione, no? Intanto, quali sono le previsioni? Marco è già esperto di previsioni, no? Come prevedete il primo quadrimestre? Riccardo, come prevedi che sarà il primo quadrimestre? Il tuo primo quadrimestre, come pensi di uscirne? Beh, senza insufficienze. Bene. Ma nella media. Nella media cosa vuol dire? Con voti sui 7-8. Bene. Alice? Tutti dicono che il primo quadrimestre è difficile, bisogna impegnarsi molto, anche perché il liceo è una scuola in cui ti devono inquadrare. Anche io, come Riccardo, spero di uscire senza debiti. In greco soprattutto, ecco. Alberto? Spero anch'io di non avere debiti a fine anno, di avere una buona pagella e di comunque divertirmi durante questo primo quadrimestre. Per chiudere, Marco, che ha già avuto pagelle, sì, beh, non positive. Beh, rispetto all'anno scorso sono molto migliorato. Molto meglio, sì. Perché molto, sono... di cosa vuol dire molto, perché molto va dal 7 al 10. Beh, diciamo che prima ero sul medio del 5-6 così. E adesso? Adesso sono sul 7-8 anch'io. Beh, bravo. Ecco bene, quindi speri di mantenere questo. Sì, E allora, ci impegniamo a verificare fra un po' di mesi? Sì, sì, sì, direi di sì. Avremo l'occasione, o se no, i primi del prossimo anno, di render conto a questi nostri ascoltatori. Io questi ragazzi li conosco perché... Restiamo in contatto allora. Sì. Grazie Giampaolo, con te ci ritroveremo, credo, come sempre, nel secondo quadrimestre a gennaio. Ringraziamo Riccardo, Alice, Alberto e Marco. In bocca al lupo per l'anno scolastico. Auguri a tutti. Grazie a Didaici Regia, a voi per l'ascolto. Da Mirko Cavallini, appuntamento con la scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.